Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Oh, giovani, quando vi dico seguitemi i miei pugnaci, dovete seguire e pugnare. Poche foot. Yeah, Ulisse, yeah. I'm on seven with Jamaica, doing mountain, shining down the river. All my friends there, pulling on those dreams, younger than the mountain. Non voglio fare assolutamente la cosa rossa, però voglio fare una cosa che non sputi sul rosso, perché questo no. Questo è legittimo. L'elemento di divisione è Renzi. Se questo elemento di divisione, quindi lei dice, senza Renzi viene, si può tornare insieme, rimosso, sicuramente il centro-sinistra tornerà ad essere unito. Siamo veramente in una crisi di sistema, quasi. Altro che Emiliano e queste cronachette qui, Emiliano o anche il mio amico Rossi, eccetera, eccetera. Auguri, no, faranno una nuova forza politica. E cosa vuoi fare? Farai quello che è. Sapete chi è il vincitore? Berlusconi. Sì, su questo. Perché nessuno otterrà quel 40%. Vero? E Renzi farà il governo con Berlusconi. Resuscita il Caimano, il Cainano, lì il bello cavaliere, capito, con la pompetta. Quello farà Renzi. Faranno un governo, un inciucio. Oh, che bello questo chiacchiericcio politico, Ah, interessante, notizie fondamentali. Notizie fondamentali per voi, lo so, che vi siete svegliati, magari vi siete svegliati a Milano, se vi foste svegliati a Milano avreste trovato 5 gradi, signori. A Torino 2 gradi, ecco, sono partiti i nostri ascoltatori. Buongiorno, grazie, 2 gradi a Torino. Nuvoloso e 11 gradi a Napoli. Beh, però 11 gradi, Jenny, dai, su, forza, accontentatevi. A Babato, Padova, 7 gradi, ci fa sapere Antonio. Salutiamo Riccardo da Champigny-sur-Marne. Evviva France. Oh, i nostri 31 gradi a Perth. La nostra ascoltatrice, Chiara, giusto si chiama, Chiara? 31 gradi aperto. Ciao Chiara. Va bene, a Taranto 7 gradi, a Como 3 gradi, a Perugia 18, ah no, 18 quella interna, in casa 6 gradi a Perugia, 6 gradi a Perugia. E 14 gradi in Ohio. Ad Arezzo. Signor Bianconi, ho detto ad Arezzo. Ho capito. 0 gradi. Zero. Vabbè. È freddo. Ma dov'è l'onorevole Bianconi? Io sono a Roma. A Roma. Maurizio Bianconi, eccolo qua. Comunque, buongiorno. Tutti che si scandano per queste notiziole, mentre la notizia del giorno l'ha lanciata il presidente islandese dell'Islanda, Gudni Johannesson. Notizia mondiale, Bianconi, mondiale. Che ha detto? Ha detto che la pizza all'ananas è un orrore. Non ha torto. Non ha torto, io sono d'accordo. La pizza all'ananas andrebbe vietata, ragazzi, ma è come il cappuccino da vietare dopo le 11 del mattino, il cappuccino a pranzo per gli stranieri, la pasta al ketchup. Mamma mia, ragazzi, rompere gli spaghetti. Lei è uno di quelli che rompe gli spaghetti a metà? Io? Eh. No, no, no. Mi dà l'otolo per pennino, li mangio. Ah, appunto. La pasta Alfredo. Ma sapete che in tutto il mondo pensano che la pasta Alfredo inventata da questo immigrato negli Stati Uniti sia la pasta italiana per eccellenza? Anch'io quando ho ospitato il mio amico Jordan dall'Ohio, scusate, da Utah per 3 mesi, mi ha detto: ma la pasta Alfredo? Ma che cazzo è la pasta Alfredo? Jordan, ma che sei matto? La pasta Alfredo la trovi nello Utah. Vabbè. Va bene, a Oporto 2 gradi, sì, capisco l'ironia, capisco l'ironia degli Juventini che vinceranno anche la Champions League a mani basse, va bene, bravi, vincerete tutto subito. Caro Bianconi, io devo aprire il Parlamento perché le devo subito tirare le orecchie. No, ragazzi, se uno davvero? Sì. Gli state sopra così, io vi voglio bene. Perché qua si parla di taxi. Oggi Del Rio fa un'intervista a dire che non abbiamo ceduto alla piazza, vabbè, le solite cose, eccetera. Ma i taxi. Allora, sa qualcosa di Flixbus? Ne ha sentito parlare, Bianconi? Flixbus. Certo, ne ho sentito parlare. Ho presentato un emendamento. C'è un emendamento anti-Flixbus. Flixbus è questa piattaforma che gestisce gli autobus con viaggi lunghi, interregionali, eccetera. Chi ti ha messo un emendamento al Senato e poi approvato alla Camera in mille proroghe contro Flixbus? Diciamolo chiaramente, contro Flixbus. L'hanno fatto 4 senatori, mi risulta, di conservatori, di conservatori e riformisti. Ma per farmi girare i coglioni, come fa svegliato questa non lo so. Non lo so, che la verità per cercare di riequilibrare la cosa, sì. La Pezzone, io, Marti e Corsaro abbiamo presentato un emendamento soppressivo alla Camera. Ma soppressivo? Ma erano vostri colleghi dello stesso partito? Ma vede lì, era prevalso, secondo me. Io dico, purtroppo l'Italia è molto lunga, ha prevalso l'aspetto regionale. Spieghiamolo. Erano 4 senatori pugliesi, giusto? Sì. E c'è casualmente adesso, io non è che c'è un'azienda che fa grandi viaggi su autobus pugliese. E io penso che abbia bevuto quello, però la cosa grave è che tutti gliel'hanno votato. È passato, quindi. È appunto. Cioè, succede voglio questo. Voi non a torto. Segnalate questa faccenda, però il grave è che il Parlamento gliel'ha votato. Cioè, spieghiamo bene agli ascoltatori: 4 senatori del suo stesso gruppo, conservatori e riformisti, hanno fatto questo emendamento. Voi alla Camera volevate sopprimerlo perché vi siete... cercavamo di rimediare a una comprensibile istanza regionale che però non corrispondeva al nostro modo di vedere ai principi del nostro movimento. Ma è fantastico però questa idea, cioè conservatori e riformisti fa un emendamento, altri di conservatori e riformisti si rendono conto che è sbagliato, lo vogliono togliere, ce ne siamo resi conto un po' tutti, però, e la Camera approva Camera non l'ha neanche considerato. Il grave di tutta questa faccenda non è che questi 4 colleghi hanno presentato un emendamento sul quale si poteva discutere dell'opportunità o meno. Il grave di tutta questa faccenda è che il Senato gliel'ha passato e che la Camera si è rifiutata di curare un emendamento soppressivo di questo che secondo noi è uno sbaglio. Quindi è passato poi l'emendamento. E la sostanza è passato. Ora speriamo che il governo rimedi, ma non per fare un torto ai 4 colleghi, ma perché... Noi bisogna rendersi conto che gli aspetti territoriali, gli aspetti geografici, gli aspetti che sono in qualche modo il vizio dell'Italia e non ci possono far arretrare fino a questo. Però è straordinaria questa cosa. Cioè, per riassumere, 4 di conservatori e riformisti fanno un emendamento al Senato. Altri dello stesso partito alla Camera si rendono conto che questo emendamento non va bene. Propongono di sopprimerlo e la Camera fa finta di nulla e approva. Di nulla, esatto. Quindi... ha fatto finta di niente, cioè il grave non è la presentazione, il grave è l'approvazione da una parte e la non approvazione dall'altra. Il grave è che il Parlamento sta con questo tipo di ragionamento. Esatto. Il grave è che la maggioranza dei rappresentanti degli italiani, e quindi pochi italiani, stanno con questo tipo di ragionamento. Che è un ragionamento che io non sono né un europeista né un europeista di questa Europa, né tantomeno un filo euro di questo euro. ma ho ben in mente cos'è il libero mercato. Sì, il libero mercato non lo consente tutto questo. E quando sento dire da un ministro, come dire io, che ci sono i tassisti che hanno pagato fior di euro da licenza, e si scorda di io che le licenze si possono né vendere né comprare. Quindi c'è un mercato illecito che è diventato regola, per preservare un mercato illecito che è diventato regola, si fanno tutte queste scelte. In tutto questo, signore, insieme a Maurizio Bianconi, perché mi faccia presentare anche la nostra Flavia Perina. Buongiorno, Flavia. Buongiorno, eccoci. Buongiorno. Stavamo parlando dell'emendamento Flixbus, fantastico. Nato da conservatori riformisti, anti-Flixbus, nato da conservatori riformisti, altri dello stesso partito volevano cancellarlo, ma la Camera approva. Sono i pugliesi contro i non pugliesi. In Italia parliamo sempre di poteri forti, ma in realtà il problema nostro sono i poteri piccoli. I poteri piccoli, questi là, quando arrivano i poteri piccoli, noi ci fermiamo. I poteri locali. Io infatti vorrei fare una lobby. Ecco, per esempio, Flavia Perina, ti sei persa all'inizio, ma la vera notizia è il premier islandese che si è scagliato a livello mondiale contro la pizza all'ananas. Che ne pensi? Certo, questi sono temi importanti. L'Islanda è un grande paese. L'Islanda è sempre stata l'avanguardia. Sì, hanno un dibattito politico molto effervescente, perché se il premier deve occuparsi di pizza all'ananas, diciamo una piccola isola felice dove il top del problema è la pizza all'ananas. Dove non ci sono questi problemi, per esempio il Partito Democratico. Signori, titolo della telenovela puntata 7942 di oggi: mi si è ristretta la scissione. Questo è mi si è ristretta la scissione, Flavia Perina. Chi altro se n'è andato dopo Emiliano? Anzi è il contrario, cioè pare che alla Camera sono rimasti in 19 ad andarsene, cioè dovevano essere 60, 80, 90, 19. Dovevano essere 25 o 30, mi sembra, 60, davvero? 80 non credo, sì, stiamo dando dei numeri un po' troppo esagerati, cioè voleva dire che tutto il partito si scindeva da se stesso in pratica. Sono rimasti in pochini. Fare le scissioni è difficile, però diciamo è anche vero il ragionamento che tante volte i voti non si contano ma si pesano, bisogna vedere chi sono. L'addio di Bersani comunque è un addio che ha un suo peso politico al di là dei numeri. E quindi penso che tanto bisognerà vedere come avverrà questa scissione, perché verrà, un aspetto misterioso in tutto questo che sono gli scissionisti al momento non sembrano aver dato segnali di vita per spiegare quale sarà il loro percorso. Come si chiameranno? Non lo so. Bianconi, che sono questi scissionisti? Come si identificano alla Camera? Come si vestono? Io mi sembra di vedere una storia che ho già visto, quando Berlusconi voleva liberarsi di tutti. E li mandava via e faceva di tutto, faceva finta di volerli tenere, li cacciava tutti, e così sta facendo Renzi. Tutti poi, quanti sono? 19, 18, no, 15? Questo fa parte, cioè il numero dei parlamentari, su questo ragiona Flavia, conta poco, e l'importante è che c'è una scissione sostanziale che divergerà dalla questione dei numeri, che sono di più di quelli che dice lei, ma sono in origine di meno di quelli che ha detto lei. Devono essere una trentina, 35, saranno 20, 25, ma poi non è questo il problema. Il problema poi è nella sezione di Firenze, nella sezione di Bologna, dove funziona il partito di qua, dove funziona il partito di là. La realtà è che Renzi sta facendo siamo agli Adams, c'è un ritorno alla preistoria. Gli Adams, cioè della famiglia Adams. Sì, sì. La famiglia Adams? Ritorno alla preistoria, da Berlusconi a Emiliano. E assisteremo a questo governo nella prossima legislatura, nessuno è fisso. Emiliano ha preparato la trappola e è andato a cena con Berlusconi come lei sa. Ma non è vero, Emiliano ha smentito. Sì, a forza è bugiardo com'è. Sono tutti bugiardi. Il trio Lescano, che sono i tre più bugiardi, d'Italia, capaci di cambiare opinione ogni sei mesi. Cioè, chi sono? Chi sono Berlusconi, i tre? Berlusconi, Renzi e Emiliano. Berlusconi, Renzi e Emiliano. Il trio Lescano. Con me sono giù alla minestra. Cioè, il trio Lescano, il trio più bugiardo d'Italia. E poi Verdini con me sono usciva nel paiolo, usciva, usciva, ufa. Quindi lui quindi è un quartetto, è il quartetto Cetra, sì, più, il più bugiardo. Noi siamo in mano a questi personaggi. Hai capito, Perina, lo sapevi di essere in mano a questo quartetto Cetra o sì, Trio no, no, questa è un'idea suggestiva, l'idea di un grande accordo di questo tipo è un'idea suggestiva, vedremo se corrisponderà alla realtà, però ha ragione Bianconi. Decisioni si portano dietro, lasciamo perdere le dinamiche del Parlamento. Mm. In un partito come il PD, che è l'ultimo partito italiano che è rimasto, gli altri non è che sono partiti, sono diciamo gruppi di parlamentari eletti, non hanno alcun meccanismo di tipo democratico, e questo porterà, porterà delle, delle cose sul territorio, a cominciare anche dai dagli stessi governi regionali, perché cosa succederà in Toscana, dove Rossi sicuramente se ne va. Cosa succederà in Emilia Romagna, dove Bersani non è l'ultimo, conta qualcosa anche sul territorio, e insomma siamo solo all'inizio della storia, esatto. E la storia va avanti. Allora però andiamo al traffico, mi arriva un messaggio, mi dite Bianconi di che partito è, allora io lo dico per l'ultima volta, basta, adesso prendete appunti e informatevi. Direzione Italia. Bravo Milan, Direzione Italia. Oh, diciamolo almeno 10 volte che la gente deve conoscere questo nuovo partito. Direzione Italia. Italia. Neopartito, nato da poco. Neopartito che ha la funzione di fare quello che non è riuscito a fare il Popolo della Libertà. Domani lo presenta ad Arezzo, è vero? Sì, domani sì. Domani si presenta ad Arezzo, si comincia la Toscana ad Arezzo. Beh, cioè, perché è così. Colazione a casa e poi... Sì, ma sai, io a casa... Adesso ho lo studio, non c'ho più casa. Non c'ho più casa. No. Ma quanta affluenza si prevede? È una conferenza stampa, ma prevedo che una... che vengono tutti i giornalisti. Ah, ecco, giustamente. Direzione Italia. Direzione Italia. Esatto. Andiamo al traffico. Al mio segnale, scatenate il traffico. Ale, per far valere le nostre ragioni bisogna incazzarsi, veramente. Ma questa polemica sulla Raggi che sta con i tassisti non mi sembra un po' cretina? Ma secondo voi con chi doveva stare? Con il governo che ha fatto un decreto killer di nascosto senza parlare con le parti? Signor Milan, quasi quasi c'è scacciato cazzo, che sta temperatura la mattina, 3 gradi, 2 gradi, 50, che c'è... Ma scusa, domanda pure il parere a Vincenzo De Luca, se ho avuto queste temperature che la mattina ci scassa, cazzo. Italiano, voi come la pensate? Io sto adesso veramente con Renzi, è andato a parlare di futuro con Musk, e questa è una bellissima mossa per uno che di futuro cosa ha fatto? Ha finanziato le trivelle, il petrolio, ha tolto il finanziamento fotovoltaico e sta fondando la DC. Beppe Grillo sfotte un po' il viaggio in California, Musk è quello che ha fondato la Tesla, no? Questa azienda molto... proiettata al futuro. Oggi Renzi parla alla stampa, una lunga confessione a Paolo Mastrolilli, ha detto: caro Bianconi, non sono qui in California certo per fare il fighetto, sono qui per... L'ho detto una volta, i vecchi segretari del partitone di sinistra andavano a Sochi, a Sochi, in Crimea, no? E lui invece va con i soci in California, cambiato il mondo. È andato con Carrai, esatto. Vabbè, ma lei è andato in California per vedere nuove idee, il futuro, lo sviluppo, le start-up. Ha una sega delle buone idee, si sta cagando da combinare, qualcosa a panacca. No, è un bugiardo. Sì, è quello. Come compulsivo, sì, quindi non ha portato neanche la moglie, chissà che è andata a fare. No, dai, adesso Dio, cosa Flavia? No, oh mio Dio. Non è un viaggio di vacanza. È un viaggio di lavoro, mi avete detto che lavoro è? È certo, di lavoro, ma l'ha detto, lui dice voglio raccogliere idee contro i populisti. Le idee infatti si fanno, infatti pensa lui a fare i partiti. Vabbè, insomma, Flavia Perina che ha fatto niente, dovunque vai, qualunque cosa fa per Bianconi, no? Che no, sarà andato a fare? Guardi, ma detto, lui ha detto al mondo che se perdeva il referendum se ne andava e andava a lavorare per davvero. Cameron ha perso il referendum e se n'è andato. Lui ha perso il referendum, è andato in cura tutto quel cadetto. Questo è vero, come D'Alema. Dopo il referendum torna. Deve smettere, quando ha detto che smette, smetti. No, dici di smettere e poi ritorna. Vabbè, sentiamo la perina. Ma magari, magari si sta cercando lavoro in California, Bianconi, che ne sai? Magari sta cercando sì. tu un lavoro in California. Non possiamo, magari, se, con non possiamo saperlo. Con il lo bene, lo sai come trova bene. No, vabbè, ma che... perché lui ha avuto un incarico no? da un'università sì. straniera a Firenze, quindi non lo so possibile, no? No, adesso al di là di tutto, secondo Flavia, quali sono le mosse di Renzi secondo te a questo punto? Perché sui giornali... La mossa di Renzi è completare quello che aveva fatto 3 anni fa, cioè la rottamazione di tutta un'area del partito che lui ritiene vecchia, degli spostatori, delle persone che non prendono voti, delle persone che ostacolano il suo progetto e quindi... E attraverso la scissione lui completerà la rottamazione che aveva fatto 3 anni fa e se ne andranno volontariamente e quindi lui sarà libero di guidare il partito senza contrappesi e senza gufi. E, beh, no? e poi vuol tornare, poi vuol tornare lì a governare. Cioè... Era la corrente dei gufi. Dopodiché fatto questo secondo me ci porterà a elezioni nel più breve tempo possibile perché ormai non ci sono contrappesi in questa direzione. Le cose che ha detto Orfini sulla necessità che la Camera approvi determinati provvedimenti e non a caso ha scelto il provvedimento più divisivo di tutti, che è quello sui nuovi italiani, Orfini lo ha citato dicendo si deve fare anche con un voto di fiducia, e sono delle piccole tacche che vengono messe per cominciare ad aprire delle crepe nella solidità della maggioranza. Poi quando saranno pronti faranno cadere il governo Gentiloni e diranno si va a votare. Sì, è tutto. E tra l'altro oggi Repubblica rilancia questa idea di giugno, c'è ancora un'ultima finestra, se fa entro il 9 aprile il congresso è l'ultima possibilità, dopo Pasquetta sciogliamo le camere, si va a votare a giugno, Bianconi, capito? Su questa si farà di tutto, ma io penso che si voterà nel febbraio del 2018. Ah, si arriverà alla fine. Sì, si arriva alla fine, ma è vero quello che dice la Flavia, cioè questo vuole andare a votare alla svelta perché ha fame di vendetta e che capisce che più vai là e meno popolarità. Questo è un punto. L'ha detto anche D'Alema, ma poi si va a votare a febbraio anche perché si sa i vitalizi. No, Bianconi, scherzavo, scherzavo, era una provocazione. Scherzavo. Dopo Flavia su questa cosa Bianconi parte, abbassa la testa e parte. Anche perché questa cosa che si chiama vitalizi veramente è sbagliata. Sono pensioni legate ai contributi. Il nome vitalizio è stato appiccicato lì, ma non sono vitalizio. Vabbè, ma no, non entriamo, non volevo rilanciare. Volevo invece rilanciare la nostra cara vecchia rubrica, D'Alema. D'Alema è una rubrica fantastica. Ragazzi, lo psicologo di D'Alema. Qua bisogna capire bene la diagnosi. Ieri il direttore di Vanity Fair ci ha detto narcisismo patologico. Sentiamo un po', D'Alema. Non sono mai stato molto aggrappato alle poltrone. Io mi dimisi da Presidente del Consiglio. Non sono mai stato attaccato alle poltrone. Scusate, mi veniva da tossire, non da ridere. Flavia Perina, qual è? No, perché tra l'altro c'è un... Questa è una cosa vera. C'è stata una ricerca psichiatrica di uno che ha fatto una ricerca psichiatrica su D'Alema per cercare di capire... Vendetta autolesionista, questa è la diagnosi. Ma perché no, autolesionista assolutamente che no. Ne so, questa... Vendetta autolesionista. No, non concordo assolutamente. E D'Alema è una persona che viene dalla vecchia scuola del PC, sì. Ha avuto un'educazione politica, diciamo, di serie A, sì. Quelle di una volta. E guarda tutto ciò che lo circonda come un totale cialtronismo, è convinto di essere più bravo di tutti ed è il conte di Montecristo. E quindi sindrome da conte di Montecristo. Certo, io la chiamerei in questo modo, secondo me si sta anche divertendo tantissimo. Benissimo, sindrome, bello. Bianconi, perché... concorda, dottor Bianconi col camice bianco. È un vendicativo, è uno degli uomini più efficienti che ha mai. Sì. Sta vendicando sindrome da brutto stronzo mio, ottami a me, ma te sei sindrome da vendetta gelida, sindrome da vendetta gelida, da vendicatore gelido. Va bene Bianconi, lo lasciamo con le sue sciarpe orribili alla camera anche oggi. Grazie per essere stato con noi insieme a Flavia Perina, alla prossima. e all'inmila e lì gestisci un lanciano di mia 24 mattino. Allora signori, sono le 7:19 minuti, siamo pronti qui nella lettura dei giornali di 24 mattino, questa è la rassegna stampa. Che spettacolo, che spettacolo. Lo so, il nostro progetto è quello di far condurre in una conduzione 4.0 il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, progetto che stiamo sistemando nei dettagli ormai. Le sono grato. Anche noi, grazie ovviamente. È tutto pro bono, tutto gratuitamente, tutto, non è che, insomma, così risparmiamo anche su una conduzione. Tutto. Ma si capisce che non è mestiere tuo. Per l'appunto è quello, caro Vincenzo, è quello che è, a cui noi puntiamo, la conduzione 4.0. Pura cialtroneria. Va bene, andiamo. Siamo qui giovedì 23 febbraio con i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore, l'Unione Europea, l'Italia manovra entro aprile, mentre per il Corriere della Sera parla il ministro Del Rio, taxi così le nuove regole, questa è l'intervista al ministro delle Infrastrutture e Trasporti che vedremo. Repubblica torna su questa vicenda di cronaca, aborto, assunti i non obiettori, Lorenzin e i vescovi insorgono, parleremo anche di questo. Il Fatto Quotidiano invece riprende un'esclusiva di Panorama che oggi ne dico, a terremoto Vasco Errani, la ricostruzione non esiste proprio, questo è il virgolettato attribuito a Errani in una riunione coi sindaci. L'apertura invece di Avvenire, Unione Europea, meno austerity contro l'esclusione. La Stampa ha un colloquio con Renzi negli Stati Uniti, cerco idee antipopulisti, questo è il titolo di prima pagina della Stampa. Mentre il Messaggero, piano taxi, ipotesi rottamazione, questo è il titolo. Anche qui siamo in prima pagina. Per La Verità, scandalo Banca Etruria, arrestato il faccendiere massone che ha aiutato il padre della Boschi. Questo il titolo principale. Voglio partire però dal titolo principale del giornale, due notizie che riguardano l'immigrazione. Beh, il giornale ha questa esclusiva chiamata falso buonismo, due inchieste su volontari complici degli scafisti. Di che cosa si tratta? È un qualcosa che tra l'altro anche il Financial Times a livello internazionale ha messo in evidenza, e così ha messo in evidenza anche Frontex, l'agenzia che si occupa di coordinare la sorveglianza dei confini europei. È stato notato di recente che c'è stato un aumento dei salvataggi delle cosiddette navi solidali, navi anche coordinate da alcune ONG internazionali e italiane, nelle acque del Mediterraneo nei confronti dei migranti. Il giornale però racconta che ora ci sono due procure che indagano, ONG che aiutano gli scafisti. Ora indagano due procure, sono le procure di Catania e Palermo, dopo un rapporto dello SCO, cioè il Servizio Centrale Operativo della Polizia, che ha messo insieme un dossier sulle attività delle ONG internazionali italiane, che da un anno a questa parte si sono affiancate alle missioni militari italiane e europee, che in precedenza erano le uniche a gestire i salvataggi. Leggo dall'articolo di Chiara Giannini e Giuseppe Marino, a pagina 2 del giornale, e si racconta appunto anche di questo rapporto riservato svelato dal Financial Times a dicembre, in cui Frontex, cioè l'agenzia che si occupa di sorvegliare i confini europei, ipotizzava addirittura l'esistenza di vere e proprie collusioni con gli scafisti. Il giornale ha appreso che anche la procura di Palermo, oltre a quella di Catania, sta indagando per approfondire le prime conclusioni della squadra mobile del capoluogo siciliano, coadiuvata dagli esperti del Servizio Centrale Operativo della Polizia, per capire se queste collusioni ci sono. Tra l'altro, il giornale, sempre con Chiara Giannini, racconta di una telefonata da parte della cronista, che, aiutata da un traduttore che parla in lingua araba, ha un numero di telefono che contatta di un presunto scafista, di uno scafista, cioè conosciuto tra i migranti come colui che può portarti. C'è tutto lo sbobinato di questa telefonata, pagina 3 del giornale, col trafficante che dice vai in Italia, ti vengono a prendere loro, poi non dice neanche chi, non dice bene chi, saprai tutto lì, non insistere, c'è tutta questa telefonata di chi si finge appunto un profugo per cercare di fuggire in Italia e organizza per 2.500-3.000 euro in 448 con una chiamata un viaggio dalla Libia. Sempre riguardo all'immigrazione, sulla Verità e sul Giorno c'è una pagina dedicata invece a una fiction. È una fiction un po' in controtendenza nei giorni in cui in Italia c'è una serie TV che sta avendo molto successo, quella l'ultima con Beppe Fiorello, I fantasmi di Portopalo, ambientata e racconta la storia di questa carretta del mare che nel 96 naufragò portando alla morte 283 persone, tutto questa 19 miglia da Portopalo. Ebbene, però, questa fiction di cui parlano sia La Verità sia Il Giorno è una fiction diversa. È una fiction finanziata dalla Svizzera e è una coproduzione con Nollywood. Nollywood è la Hollywood in Nigeria e quindi una coproduzione svizzera-nigeriana. Serie TV nigeriana pagata dalla Svizzera per far desistere chi viene in Europa. Questo è il titolo della Verità, pagina 11. C'è una fiction un po' in controtendenza rispetto al accogliamole. È una fiction per far capire, guardate, che non si vive bene, non si vive necessariamente meglio in Europa e quindi pensateci bene prima di partire. Cari migranti, state a casa vostra. La Svizzera lo dice con una fiction, pagina 21 del Giorno, film realizzato col contributo della Segreteria di Stato svizzero che mette 425.000 euro, cioè 450.000 franchi, insieme a Nollywood, questa Hollywood nigeriana, per far desistere i migranti a partire. E va bene. Questo succede. Soldi, soldi, soldi, soldi e pensionati. Soldi e pensionati. Allora, succede, racconta Libero, a un pensionato che ha ottenuto, questa volta bisogna dire a sua insaputa per un errore della banca, 45.000 euro che gli sono stati versati sul conto per sbaglio, lui non ha fatto nulla, si è ritrovato 45.000 euro. Ebbene, una sentenza dice non deve restituirli, anche perché li aveva spesi tutti trovati sul co. Che belli 45.000 euro, toh, compriamo questo, compriamo quest'altro. Giuseppe Barbera racconta, pagina 15 di Libero, la banca gli versò 45.000 euro per errore, non deve restituirli. All'improvviso si era trovato sul conto questo tesoretto. È un settantenne di Imperia, graziato dalla Banca d'Italia. L'avvocato Mario Leone, che lo ha difeso, è riuscito a dimostrare che l'errore lo aveva commesso la banca. Il pensionato, citato a giudizio dalla propria banca, che gli aveva accreditato per sbaglio 45.000 euro, nel frattempo aveva speso tutto. Ma dopo due anni ha vinto la battaglia, che rischiava di andare per le lunghe e prendere una buttapiega, perché certo se gli avessero detto devi restituire, non sarebbe stato male. Questa dimostrazione che il tenore di vita dipende poi dai soldi che uno ha. Ho 45.000 euro e mi adeguo e li spendo tutti. Soldi e pensionati, pensionato e soldi, questa è una storia un po' più triste e di burocrazia malata. Sara Ferreri la racconta sul Giorno a pagina 16. Lei è morto, via la pensione, solo che lui, Mario Pastori, 80 anni, è vivissimo, scambiato per un morto per una questione di omonimia. Mi han bloccato la pensione e il prestito chiesto per le mie sorelle disabili. E così sarà finché lo Stato non avrà la dimostrazione che sono vivo. Ecco, questo è il mio certificato di esistenza in vita appena fatta all'anagrafe. Cioè, capite, uno deve andare all'anagrafe e deve fare un certificato di esistenza in vita. Ma ci vorranno mesi per tornare realmente ad essere Mario Pastori, quello non deceduto. Certo, una situazione kafkiana, racconta il Giorno, quella di questo ottantenne di Iesi, ex segretario scolastico, maestro di bridge, per una decina d'anni consigliere comunale, che ha ricevuto a casa una lettera in cui la società di Milano, che si occupa del suo prestito, chiesto l'anno scorso per aiutare le anziane sorelle disabili, chiede agli eredi il suo certificato di morte. Lui, vivo e vegeto, sgrana gli occhi e da lì parte questo incubo kafkiano e burocratico per dimostrare: io sono vivo e vegeto. Va bene. Siamo all'articolo però che mi fa più della giornata. È l'articolo da Mani sul Volante, che ripeto, volante che non rimborso se voi lo spaccate. Per questo dovete tenere bene le mani sul volante. Mi raccomando, anche i rasoi della barba in questo momento appoggiateli, così come i coltelli per spalmare marmellata e burro nelle vostre colazioni. Gaetano Mazzucca racconta sulla Stampa la storia del boss dell''ndrangheta, star del web. Pubblica l'ultimo post e si dilegua. Si chiama Vincenzo Torcasio, è seguito su Facebook da 19.000 persone. La sua pagina Onore è Dignità ed è stato condannato a 30 anni di carcere. Conosciuto come U Giappone, festeggiava nel giorno della condanna San Valentino con la sua compagna al ristorante, tutto immortalato su Facebook. Noi non ci disperiamo, festeggiamo lo stesso San Valentino a base di pesce. Solo che a un certo punto, dopo la condanna, doveva andare in carcere. E lui che fa? Si dilegua. Ma prima lascia la traccia su Facebook. I carceri 41 bis sono stati paragonati da Papa Francesco a forme di tortura. E poi si dilegua e tutto con i like, il bravo, i commenti. Una pagina Facebook curata da Vincenzo Torcasio, boss dell''ndrangheta. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Alessandro Milan, se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Addirittura, non esageriamo, alle 7:34 minuti, allora parliamo di taxi ancora, perché oggi il ministro Del Rio rilascia un'intervista al Corriere della Sera, pagina 3, intervistato da Lorenzo Salvia, cerca di mettere un po' i puntini sulle i della situazione. Gli autisti e Uber devono rimanere dentro le loro zone. Questo è il titolo dell'intervista. Tra l'altro Del Rio dice: non abbiamo ceduto alla piazza. Ma resta il fatto che i tassisti hanno ottenuto quello che volevano, non crede? Abbiamo lavorato a un obiettivo che serve al paese. Una regolamentazione del settore ci vuole a prescindere dalle proteste. Poi Del Rio viene al punto, al cuore, alla domanda: aprirete a Uber Pop l'app per gli autisti senza licenza? Mi sembra molto difficile, risponde, ma non è questo il problema, già ora non è ammesso. Veniamo allora agli NCC, cioè i noleggiatori con conducente. Dovranno tornare al garage di provenienza dopo aver lasciato il cliente o potranno caricarne altri sul posto? Una differenza con i taxi deve rimanere, risponde Del Rio. Gli NCC potrebbero dover rientrare non nel garage di provenienza, ma nell'ambito territoriale ottimale. Intende nella regione in cui hanno preso la licenza? Beh, l'estensione della zona andrà discussa con regioni e sindaci, ma il nodo della territorialità deve restare. Così come vanno rafforzati i controlli. Se uno ha la licenza in un paesino delle Marche e lavora a Milano, mi chiedo se sia concorrenza o concorrenza sleale. Ma senta, ministro, ormai a far concorrenza ai taxi sono tante cose, il car sharing, bla bla car, non si ferma il vento con le mani. Certo, risponde Del Rio, ma non è detto che tutto il vento nuovo faccia bene per forza. Siamo aperti all'innovazione che in molti campi sta migliorando le nostre vite, ma non è un bene a prescindere. Dipende da cosa fa, da come lo fa, dalle conseguenze. I fattorini in bici che portano le cene a casa per 3 euro l'ora, per dire, sono innovazione o sfruttamento? E secondo lei, appunto, nuovo non significa per forza meglio. E poi c'è anche una questione politica, perché dice su Virginia Raggi, che è scesa in piazza a favore dei tassisti: un sindaco deve assumersi le responsabilità, non scaricarle sugli altri. Le licenze dei taxi le danno i comuni, non il governo, e un buon sindaco non carezza il pelo alla piazza, dando ragione a una categoria per volta. Semmai le scontenta un po' tutte e poi trova la giusta mediazione, proprio quello che stiamo facendo noi sui taxi. In caso di altri scontri, conclude Del Rio, diventerebbe una questione di ordine pubblico. Questo Del Rio, si parla ancora di Il Giorno lo fa oggi, trasporti, farmaci. Nulla che cambia sotto il fronte delle liberalizzazioni. C'è anche un'intervista ad Alberto Mingardi dell'istituto, direttore dell'istituto Bruno Leoni, che dice siamo un paese al palo da questo punto di vista. Tra l'altro sui taxi sono state identificate 100 persone per i tafferugli. Questo è il risultato di una giornata di guerriglia a Roma. Dai taxi vorrei saltare alla questione dei terremoti, del terremoto e dei terremotati, perché oggi Panorama ha un'esclusiva. Carmelo Abbate e Laura Della Pasqua raccontano tutto a pagina 38 di Panorama. Tutto ciò è ripreso anche dal Fatto Quotidiano, che lo mette in prima pagina, riprendendo questo scoop di Panorama. Che cosa succede? Cosa racconta Panorama? Racconta di una riunione in cui Vasco Errani, che è il responsabile della ricostruzione, chiamato dal governo a ricoprire questo incarico dal governo quando c'era Renzi al governo, e ha fatto questa riunione con i sindaci. E il commissario governativo Errani, scrive Panorama, ascolta in silenzio i sindaci e poi inizia un discorso che Panorama è in grado di riportare fedelmente, ed è questo. Non c'è dubbio che abbiamo avuto 4 terremoti, la dimensione stratosferica, ma tutto ciò non risolve il fatto che non riusciamo ad andare avanti su alcune cose. Macerie, stalle, casette, questa non è la ricostruzione, questa è gestione dell'emergenza, bisogna cambiare e bisogna dare e fare un'altra governance, se no non ce la faremo. E ancora, al grido di non esiste, aggiunge Errani, non esiste il fatto che per cominciare a fare le casette, che non è ciò che devo fare io, si attenda di avere il fabbisogno definitivo di tutte le casette. Non esiste che per fare le stalle bisogna metterci tutto questo tempo. Non esiste. Questo è lo sfogo di Vasco Errani. Il titolo dell'inchiesta di Panorama è Il terremoto non esiste. L'accusa è: a 6 mesi dal sisma sono state consegnate 42 casette su 1881, le stalle crollate ancora quasi tutte fuori uso, per non parlare di strade, sopralluoghi che finiranno tra un anno, gli sfollati che con l'estate rischiano di trovarsi fuori dagli alberghi, anche perché gli alberghi insomma in estate verranno poi prenotati dai turisti. E quindi che succede? È tutto fermo sul terremoto? Panorama oggi racconta questo sfogo di Vasco Errani. Come avete visto, la politica l'ho messa un po' in secondo piano, ma che dire, scissione del PD, telenovela giunta alla puntata 7982, titolo di oggi, mi si è ristretta la scissione, questo si può dire, perché sono sempre più quelli esitanti, sono sempre meno quelli che vogliono lasciare il Partito Democratico. Cosa vi devo segnalare riguardo alla politica? Un colloquio di Paolo Mastrolilli sulla stampa con Renzi. Renzi è in California e, come dice lui stesso in questo lungo colloquio con virgolettati che inizia a pagina 1 della stampa e poi continua a pagina 3, sono in California non certo per fare il fighetto. Negli Stati Uniti cerco idee per battere i populismi e rilanciare la sinistra. Questo è il titolo. Eccolo qui Renzi, al termine di 15 miglia sul lungomare di San Francisco di corsa. Sono sereno e sorridente, lontano 8.000 chilometri dalle polemiche. D'altronde non sono più premier e non sono più segretario del PD in attesa del nuovo congresso. Ma mentre noi stiamo a discutere da 3 mesi sul congresso del PD, come si muove Sel, come Berlusconi e Salvini vanno d'accordo, fuori c'è un'Europa che continua a essere il punto fondamentale in un mondo che viaggia a una velocità straordinaria. Cioè, anche Renzi certifica che insomma non se ne può più di queste chiacchiere che peraltro anche lui stesso insomma alimenta sui giornali, insomma, il Partito Democratico non fa altro che parlare di se stesso. Adesso Renzi dice che si parla troppo di queste cose che non contano. E allora, dice lui, ho cercato di togliermi dalle polemiche. E non sono venuto qui per fare il fighetto, sto cercando di ossigenare il cervello, sto cercando, poi dice, idee contro i populismi. La risposta al populismo potrebbe stare nella crescita favorita dall'innovazione, a condizione che ci aggiungiamo un pezzo mancato anche nella mia narrazione. Come garantire la protezione a chi si sente tagliato fuori? E però dice non è questa soluzione reddito di cittadinanza che vogliono al 5 Stelle, che per Renzi è un messaggio sbagliato perché favorisce il ripiegamento su se stessi. Posso anche non cercare lavoro, tanto ricevo comunque lo stipendio. Invece il messaggio per Renzi deve essere mettiti in gioco, provaci. Il punto chiave è proprio l'innovazione. E poi aggiunge, prevenendo gli scettici, non voglio fare la parte del positivo, l'ottimista, che è tutto evviva. Sto dicendo che qui, in California, c'è un pezzo di mondo che corre. La California produce il 50% del PIL degli Stati Uniti, che è molto più grande del nostro. Certo, insomma, a chiosa di questa lunga intervista, questo lungo colloquio con la stampa, c'è comunque una piccola peculiarità che si può notare di differenza tra la California e l'Italia, e che è quella è la California e noi l'Italia. Tra l'altro su questo c'è un nuovo tentativo di votare a giugno. Goffredo De Marchis lo racconta su Repubblica, a pagina 11. Rispunta il piano Election Day. Politiche comunali l'11 giugno. Secondo questo retroscena si vuole accelerare, fare ad aprile subito il congresso, il 9 aprile, le primarie, e quindi non rinviare a maggio, e poi cercare di far cadere Gentiloni subito e votare l'11 giugno. Fatto, cotto, mangiato. Capito Mauro Meazza, hai preso nota delle date, visto che tu mi fai prendere sempre nota? Caspita, però tutti i giorni me le fai cambiare, buongiorno Alessandro. Lo so. Ho capito, però no, il cronoprogramma. Data, mezzogiorno un'altra, non ci sto dentro. Senti, innanzitutto una cosa importante, qui Radio Fisco, bene, oggi abbiamo il dato del TFR di gennaio. Questo per rompere un attimo la cosa, poi vorrei fare un intervento un po' 4.0, visto che stiamo lanciando questo andamento 4.0, non vorrei essere tagliato fuori dall'innovazione. Vediamo. Dilettantismo. Ecco, per l'appunto. Sempre incoraggianti, mi congratulo molto anche con Peter per l'incoraggiamento. Allora, innanzitutto cominciamo dalla parte dei soldi, perché come hai già ricordato nel titolo d'apertura, manovra entro aprile. 3 miliardi e 400 milioni. Quanto puoi mettere? I soliti due eurini. Sì. È quello forza. Il conto, perché anche da quello l'orcio, balla, sì, balla sempre ogni giorno, lo sconto, non lo sconto. È quello? Ma definitivo? 3,4 miliardi? Guarda, quello lì è il dato del momento. Diciamo è un po' più stabile di quell'altra data che mi hai detto prima. Però più o meno serve quello. Tu sempre due eurini metti, sì, però mi sembra di capire. Sì. Vedremo di trovarli altrove, chiederemo magari a Peter o all'altro conduttore, quello lì elettronico, se ha qualcosa da parte. Poi ti voglio segnalare che una buona notizia, è stato siglato il contratto per 48.000 dipendenti delle agenzie di assicurazione. Però c'è un'apertura anche sul venerdì pomeriggio, sai che c'era il venerdì pomeriggio sempre le agenzie chiudono, ma invece c'è un'apertura, vedremo se poi sarà percorsa dalle varie compagnie. Ne riferiamo naturalmente nelle pagine di Imprese e Territori, che tu leggerai come ben devi fare. Compulsivamente stavolta. Compulsivamente, ma no, bastava scrupolosamente. Comunque va bene così. Sappi che oggi è giovedì e c'è Casa 24. Casa 24 parla degli acquisti su carta, cioè quando tu compri ma la casa ancora non c'è. Allora come fai a tutelarti? Te lo spiega oggi Casa 24 con una serie di utili consigli che segnalo anche a beneficio degli ascoltatori. Si parla di una proroga per la GAX, le GAX, non so bene, ti ricordi le GAX? No, te le sei già scordate. La garanzia dello Stato sulle cartolarizzazioni delle banche. Si parla di proroga, leggi le pagine di Finanza avidamente, che vedrai quante cose ti impari. E a proposito di proroghe, naturalmente oggi giornatona, voto finale del mille proroghe, che tante gioie ci ha portato a noi, ai tassisti, agli ambulanti, come sai, ma anche alle questioni fisco e bilanci, ne riferiamo come si deve in norme e tributi, pagine che tu leggerai come sempre, caro Alessandro, avidamente, ma no, religiosamente, mamma mia, stamattina sei distratto dall'altro conduttore 4.0. Dobbiamo mettere a punto qualcosa, allora risentiamoci domani, così mi dai la data del voto. Bene. Se no chiamami nel pomeriggio se cambia, insomma. Per il momento, caro Alessandro, cari ascoltatori, traffico! Ciao Alino, siamo Bianca, Sofia e Costanza e tutte le mattine, ma dico tutte le mattine, ascoltiamo la lettura dei giornali a gratis! Buona giornata, siete fantastici, tu e tutto lo staff, ciao! Grandi, grandissime, Bianca, Sofia e Costanza, come sempre dico a questo punto, filare a scuola! A studiare, dopo aver ovviamente letto i giornali gratis. Letto i giornali gratis è il più gran complimento che mi possiate fare, sappiate. Allora, l'Unione Europea, come abbiamo sentito anche da Mauro Meazza, chiede la manovra correttiva entro aprile. Tra l'altro, tutti i dettagli sono sul Sole 24 Ore, Beda Romano racconta pagina 3. Vi segnalo anche che Avvenire intervista il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis dalla Lettonia e richiama anche lui nell'intervista di Giovanni Maria Del Re alcune problematiche dell'Italia. Che cosa? Beh, nelle nostre valutazioni, dice il vicepresidente della Commissione Europea, in Italia prosegue la ripresa economica, ma è bassa purtroppo, molto al di sotto della media dell'Unione. Ed è caratterizzata da scarsa crescita della produttività, uno degli aspetti che ci preoccupa di più. E poi il bilancio deve avvicinarsi verso l'obiettivo in medio termine, cioè pareggio di bilancio in termini strutturali, che assicurerebbe la riduzione del debito pubblico. Lo ricordo, il debito è il secondo più alto di tutta l'Unione Europea dopo la Grecia e dunque va affrontato. Il debito è uno dei fattori di rischio maggiore per l'economia e pesa sulla crescita. Insomma, Dombrovskis dice riforme e attenzione al debito. Quante volte abbiamo sentito questo richiamo legittimo e giusto dall'Unione Europea? E vabbè, al prossimo richiamo. In tutto il dibattito in Italia è su lo stadio della Roma. Lo stadio della Roma, Grillo ha dato una sorta di alto là. Grillo ferma lo stadio, scontro con la Roma. Sì, lo stadio, ma non lì, a Tor di Valle. Che sembra un po' come dire quel progetto è bocciato, però non vogliamo passare per quelli che dicono di no, lo facciamo da un'altra parte. Lo faranno? Oppure è un no definitivo? Beh, dall'account del club della Roma, il presidente giallorosso James Pallotta dice: ci aspettiamo un esito decisamente positivo dall'incontro in programma venerdì, in caso contrario sarebbe una catastrofe per il futuro della Roma, del calcio italiano, della città e francamente per i futuri investimenti in Italia. La mette anche sotto una sorta di minaccia Pallotta a dire: o si fa oppure sono gravi i problemi, gravi le conseguenze. Comunque la mossa di Grillo anche per il Messaggero: spostiamo lo stadio, e ma Pallotta fa capire, così salta tutto. Dunque lo stadio della Roma, siamo a una decisiva finale, un decisivo finale settimana, mettiamola così. Poi c'è il dibattito invece sulla decisione al San Camillo di Roma di assumere ginecologi che non siano obiettori di coscienza e che dunque possano in qualche modo garantire alle donne che vogliono vedere applicata una legge dello Stato, la 194, la possibilità di abortire, che è un diritto che è comunque un dramma, l'aborto per la donna, ma è un diritto garantito da una legge. Io veramente ho definito un dibattito abbastanza talebano quello che sta avvenendo, perché basta vedere tre cifre che giustamente il Corriere della Sera con Elena Tebano a pagina 23 mette oggi in risalto. In Italia il 70% dei medici ginecologi sono già obiettori. In alcune regioni si sale a percentuali, come a Bolzano l'85,9% sono obiettori, in Basilicata l'88,1%, in Sicilia l'89,1%, in Molise, ce ne siamo occupati, l'89,7%, quasi 9 medici su 10 sono obiettori. Quindi in queste regioni è assolutamente non garantito, quasi al 100%, il diritto delle donne di vedere applicata una legge dello Stato. Per cui che male c'è? se per un riequilibrio al San Camillo assumono due dottori che permettono di applicare una legge? Se si ragionasse tutto in termini di leggi e diritti di tutti, il diritto all'obiezione mi sembra molto garantito in Italia, viste le cifre che ho detto, se si ragionasse appunto in punta di diritto e meno in termini di ideologie, forse si farebbe una cosa buona. Ma non saremmo in Italia, per l'appunto. Magari saremmo in California con Renzi. Tutti con Renzi. Allora, parleremo comunque di questo, tra poco. Hanno trovato un'altra terra? Lorenzo Nespoli qui che mi riprendi, vuoi andarci? Vuoi andare a questa... Non so, la NASA ha annunciato una scoperta fondamentale. Cioè, sono state trovate 7 sorelle della Terra, 7 pianeti che potrebbero ospitare acqua e vita. Giovanni Caprara racconta sul Corriere, ma c'è su tutti i giornali questa notizia. C'è un piccolo particolare, Lorenzo. È distante 40 anni luce. Quindi se tu riuscissi mai a viaggiare alla velocità della luce... cosa assai improbabile, tra 40 anni riusciresti a raggiungere questa, poi ci vieni, poi torni, quindi altri 40, sempre viaggiando all'età della luce, e ci vieni a dire se sei ancora vivo, se c'è vita là. Vabbè, no, ovviamente ironizzo, la scoperta dal punto di vista scientifico è molto molto importante. Trovate 7 sorelle della Terra, potrebbero ospitare acqua e vita. La NASA dice che sui pianeti ci sono temperature tra 0 e 100 gradi, 3 sono in fascia abitabile. Tutti i dettagli li potete trovare sui giornali, è una ricerca importante dal punto di vista scientifico. Ecco, sono un po' lontanucce, ecco, 40 anni luce non è proprio una distanza piccola. Va bene, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. In realtà, secondo me, è la notizia del giorno. È la notizia del giorno, la polemica lanciata a livello mondiale. Mondiale dal presidente dell'Islanda Gudni Johannesson, che ha detto: io la pizza all'ananas la vieterei, proprio è un orrore. E Repubblica dedica mezza pagina a questo: pizza all'ananas, che orrore, la vieterei. Ma chi se ne frega!